che volete, che mi conforte in così dura, dura sorte? E che vorrete? Lasciatemi, lasciatemi morire. Pietà, Signore, di me dolente, meno severi che ben di signora, meno pregar, meno pregar, grandio sopra di me. Pietà, Signore, di me dolente, meno severi che venti, Signora, meno pregar, meno pregar, gran Dio sopra di me.